In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Gesù va in giro per le città, per i villaggi e predica e parla della buona notizia del regno di Dio, cioè vuole che tutti vengano a conoscenza della salvezza che è rivolta anche a loro, vuole che tutti abbiano consapevolezza che la vita è bella, non solo che la vita è bella, ma nello stesso tempo la vita di qua giù non è tutto, la vita è quella che viviamo qui, ma in prospettiva della vita eterna. E questo Gesù lo fa capire in tanti modi. E con lui chi c'è? Ci sono i dodici e ci sono anche alcune donne. Noi tante volte ci dimentichiamo questo particolare. Abbiamo sempre presente gli apostoli che seguono Gesù. Però tante volte ci dimentichiamo della figura di queste dolci accompagnatrici che seguono anche loro il Signore e che collaborano con Lui, che mettono a disposizione i loro beni. E chi sono queste donne? Non sono donne eccezionali, sono donne, anzi, da la condotta anche abbastanza dubbia, e hanno avuto un passato abbastanza burrascoso. Eppure il Signore le ha guarite, le ha liberate e adesso sono pronte a collaborare con Lui. E qui si dice che da Maria, chiamata la Maddalena, il Signore ha fatto uscire sette demoni. Il numero sette sappiamo che indica pienezza, un numero pieno, quindi un numero infinito. Sette demoni quindi vuol dire che ha liberato la Maddalena da tutti i vizi possibili e immaginabili. E queste donne quindi servono il Signore, servono gli apostoli e collaborano con loro. E allora pensiamo anche oggi a quante donne nella storia della Chiesa, anche nella storia di ciascuno di noi, quante donne hanno avuto un influsso positivo e hanno collaborato con il Signore per portarci alla fede. E vorrei invitare ciascuno di voi a pensare a tutte quelle figure femminili che hanno avuto un influsso nella vostra vita e cercare di ricordarci queste persone e di ringraziare il Signore per la loro vita e possibilmente anche ringraziare loro stesse. E quante volte nelle parrocchie noi prendiamo abbastanza in giro le persone cosiddette beghine, bigotte, mettiamo questa targhetta, no? E invece sono magari proprio queste persone dalla fede, magari semplice, magari anche una fede non tanto formata, che tuttavia è una fede genuina, che mandano avanti con la loro preghiera, con la loro semplicità, la vita di tante parrocchie. Allora ringraziamo queste persone. Queste donne, e anche che magari non sono delle persone eccezionali, ma tuttavia sono delle persone che hanno voglia adesso, di seguire Gesù, di seguire il Signore e di collaborare con Lui. E quindi preghiamo per queste persone e preghiamo con loro, per loro e insieme a loro e se abbiamo la possibilità appunto di avvicinarle, anche di ringraziarle per quello che fanno, ancora meglio. E poi se sono persone che sono morte, chiediamo anche, preghiamo per loro, ma soprattutto chiediamo la loro intercessione. Buona giornata.